I giardini pensili di Babilonia, i fakiri stanchi di giornate estive, i tappeti sotto le costellazioni, mi sollevavano certe geometrie. Ma invece a Bollywood, sai, non è Hollywood, i tappeti volano raggiunto Taj Mahal. Venite a Bollywood, lo senti questo sprosso, careggia tutto nei colori dell'amore. La Shivava Shivare, Shivava Shivare, Shivava Shivare, Shivava Shivare. Venite a Bollywood, sai, non è Hollywood, i tappeti volano raggiunto Taj Mahal. Venite a Bollywood, lo senti questo? Pare di un buffo nei colori.